Antonio, vuoto Antonio, vuoto Antonio, italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Di Simone Spezia. È successo già in Italia che internet, la comunicazione via web e social network avesse un impatto su una decisione politica. Non tutti se lo ricordano. Buona giornata da Simone Spezia e benvenuti a Vota Antonio, la trasmissione che vi racconterà o cercherà di farlo come Twitter, Facebook, i blog e in generale la rete possano cambiare la politica e come lo stanno già facendo nel modo di comunicare, in quello di interagire e partecipare. È già successo, si diceva, 13 giugno 2011, l'apertura del TG La 7 delle 20. Lo sapete tutti, è stato il giorno dei referendum ed è stato il giorno in cui i referendum hanno dimostrato che c'era una voglia di partecipazione, c'era una voglia di incidere, c'era una voglia di dire evidentemente sì all'abrogazione di alcune norme di legge che venivano viste molto negativamente, le centrali nucleari, il legittimo impedimento, le due leggi sull'acqua. La parola chiave, per quanto possa sembrarvi vaga e lontana, la pronuncia Enrico Mentana: partecipazione. Che cosa è successo? È successo che scarse informazioni sono filtrate attraverso i cosiddetti media ufficiali, i referendum non sono stati coperti in maniera straordinaria, e però le informazioni sono circolate appunto molto attraverso la rete. Il web ha un potenziale in gran parte ancora inespresso enorme. Una ricerca pubblicata recentemente da un istituto americano, Pew Research, dice che un quarto di coloro che usano i social network hanno iniziato ad interessarsi ad un determinato argomento politico, che non vuol dire chiacchiericcio, balletto di dichiarazioni, come di solito siamo abituati a pensare, ma sostanza delle cose, proprio dopo aver letto qualcosa in rete e averlo commentato. Il 16% degli utenti dei social network dice di aver cambiato idea su quell'argomento. Inquilini, coinquilini, condomini casigliani, quando andrete alle urne per compiere il vostro dovere, votate la lista PNR, Partito Nazionale Restaurazione. Scegliete un numero solo, che è tutta una garanzia, tutto un programma. 47! Porto del palo! E fessa chi non sta zitto, ma guarda che numero mi hanno dato. È il nuovo condominio di Totò, quello nel quale nel film Gli Onorevoli chiedeva la preferenza con il megafono e con un grido, quello che dà il titolo alla nostra trasmissione, quello nel quale i condomini, come avete appena sentito, potevano rispondere prendendolo in giro, ma nel quale avrebbero anche potuto parlarci, suggerire, discutere. È una nuova frontiera appunto della partecipazione politica, ma non molti sembrano averlo colto. Parleremo anche di costoro. È una trasmissione aperta, altrimenti tradirebbe l'idea stessa sulla quale si fonda. E dunque sul nostro sito www.radio24.it trovate tutti i riferimenti, la nostra pagina Facebook, l'account Twitter mio, Simone Spetia, e quello della trasmissione, Vota Antonio R24. Suggerimenti, idee, segnalazioni, queste ultime anche a votantonio@radio24.it, che lo scriviate con due A o con una sola, va bene. È tutto benvenuto. Leggere come un guanto. Sul suo profilo Flickr, servizio di condivisione foto, il presidente Lombardo Formigoni carica gli scatti del suo incontro col governatore del Texas, Rick Perry. Tre immagini, di cui una è dei piedi dei due, di Perry e di Formigoni. Didascalia: stivali da rodeo per il governatore del Texas, a destra le scarpe italiane di Roberto Formigoni, leggere come un guanto. Trattasi di mocassini neri con frange azzurre in stile pelle rossa, ma insomma la passione per i colori del presidente Lombardo la conosciamo. Che fai, mi cacci? Lo scontro tra il consigliere regionale dell'Emilia-Romagna Giovanni Favia del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo va in scena prevalentemente sul web, non poteva essere altrimenti. L'apoteosi nel tweet di Favia: non ho nessuna intenzione di andare nel PD, il Movimento 5 Stelle è sempre stata ed è la mia casa. Che fai, mi cacci? Citazione palese dello scontro avvenuto nella direzione del PDL di due anni fa tra Berlusconi e Fini. Favia e Grillo ci perdoneranno, ma preferiamo la versione originale, non tanto per il diverso peso dei personaggi, ma sinceramente dal vivo è un'altra cosa. Siamo la gente. A proposito di Movimento 5 Stelle, vogliamo segnalarvi un'opera meritoria, perché chi fa ironia e chi scherza merita sempre qualcosa. C'è chi ha deciso di prenderlo in giro, il Movimento 5 Stelle, in maniera piuttosto brutale ma molto azzeccata. Esiste una pagina Facebook che si chiama Siamo la gente, il potere ci temono, che ormai conta circa 10.000 persone che la seguono. Nella descrizione è scritto: siamo stanchi della gente che ruba i soldi, non bastano per i privilegi che sono tanti. Rivoluzione, fuori la casta dal Parlamento, sesso libero, da seguire assolutamente. Citofona e poi scappa. Non è proprio di oggi, ma vale la pena tornare a raccontarla. L'autosabotaggio di Beppe Grillo su Facebook, ben raccontato in un articolo che trovate su techeconomy.it. Andate poi sul nostro sito e troverete il link. Che cosa è successo? Che per dire che la stampa gli dava addosso, Beppe Grillo ha fatto un fotomontaggio della prima pagina del Corriere, la sua grande foto al centro e sopra scritto, titolo a 6 colonne, citofona e poi scappa. Qual è stato l'errore? L'errore è che i grillini, o comunque quelli che seguono Grillo su Facebook, hanno pensato che fosse vera e hanno iniziato a commentare in questo senso, dicendo che la stampa di regime attaccava Grillo. Qual è stato l'errore? Valentina Spotti, che ha scritto questo articolo per techeconomy.it. Beppe Grillo, che per lui ha dato per scontato una cosa fondamentale, che la gente legga veramente quello che trova su Facebook. Lo scherzo organizzato 2 giorni fa, 3 giorni fa, per essere compreso richiedeva di essere in possesso di tantissime conoscenze. Prima di tutto quello che era successo nei giorni precedenti, l'hashtag tutta colpa di Grillo, il video del suo spettacolo dove sembrava che dicesse che bisognava picchiare i marocchini, e bisognava perderci del tempo. Italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Apriamo questa seconda parte della trasmissione con il punto settimanale di Stefano Folli. Tutte le settimane, tutti i sabati, Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore, che sentite tutte le mattine nei nostri giornali radio alle 8 con il suo punto sulla giornata politica, risponderà anche alle vostre domande. Potete scrivere a ilpunto@radio24.it. Il punto di Stefano Folli. Stefano Folli, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Simone. Allora, iniziamo da una domanda che ci è arrivata da un ascoltatore che si chiama Mario, ci scrive da Catania e molto semplicemente vuole sapere la tua opinione su quello che è il personaggio della settimana, senza dubbio, ossia Matteo Renzi. Beh, insomma, a me sembra che sia una novità interessante, perché Renzi, non sappiamo ancora come saranno queste primarie del PD, insomma, non sappiamo tante cose. Però lui ha dimostrato di essere innanzitutto un comunicatore, uno che sa spiegare qualcosa all'opinione pubblica, sa farsi intercettare dai giornali, sa essere presente sulla scena pubblica. E poi diciamo pure che è una novità, per cui il solo fatto che si sia presentato come candidato alla leadership del centro-sinistra già ha smosso le acque nel Partito Democratico, ha già fatto apparire un po' vecchi tanti altri personaggi. Secondo te il PD finirà per soffocarlo? Io continuo a pensare, magari ecco, mi espongo a una previsione sbagliata, ma io continuo a pensare che Bersani possa vincere queste primarie, perché andranno a votare soprattutto i militanti del PD e quindi lì Bersani ha un vantaggio. D'altra parte vedo anche che Renzi, proprio per non farsi soffocare, si appella a coloro che sono fuori dal recinto del centro-sinistra, no? Ha detto: coloro che hanno votato Berlusconi e sono oggi delusi, votino per me. Che è una frase inusuale per il nostro dibattito politico, no? Dove ognuno pesca sempre nel suo orto. Lui l'ha fatto e secondo me ha fatto anche un atto abbastanza coraggioso. Detto questo, io penso che lui non riuscirà a battere Bersani, però riuscirà a imporsi come personaggio nuovo della scena politica. La sua presenza determinerà delle conseguenze nel centro-sinistra italiano e sarà un personaggio del futuro. So che ragioniamo molto in teoria, Stefano, però non è che con uno come Renzi il PD ha più chance di raccogliere maggiori consensi, proprio per questo fatto, per questa possibilità che intercetti consensi guarda, da destra. Io ti ho detto delle cose positive su Renzi, bisogna anche dire quali sono i limiti di questo personaggio, e non l'età, non l'età, perché Renzi ha un'età in cui in altri paesi ci sono state candidature alla guida del governo che sono anche riuscite. Cameron non è che avesse più anni di Renzi quando è diventato primo ministro inglese. Il problema di Renzi è che deve ancora un po' precisare se stesso, qual è la sua visione del paese, qual è il suo programma. Insomma, deve dire alcune cose che non ha ancora detto o su cui forse non ha ancora le idee chiarissime. È un comunicatore, come ho detto, e questo è importante, e secondo me è tendenzialmente capace di prendere quei voti che la vecchia struttura del PD probabilmente non prende. Perché cosa succede? Succede che se noi uniamo i voti del PD che ci dicono i sondaggi, che lo pongono come partito di maggioranza relativa oggi, più i voti di Vendola, che sarebbe il personaggio con cui c'è un'alleanza di fatto, ecco, questa è l'area del vecchio Partito Comunista. Quel 33% circa, più o meno, che era l'area che raggiungeva il vecchio PC nei suoi momenti di grande espansione. Questo dimostra che dopo tanti anni ancora non si riesce ad andare oltre. Il 33% è anche quello che prese Veltroni nel 2008. Quindi, se c'è il problema politico per l'eccentro-sinistra italiano, è di andare oltre. Tony Blair, in Inghilterra, divenne primo ministro, tra l'altro molto giovane, quando, diciamo, riuscì a portare nel partito laburista i voti che in precedenza erano andati a Margaret Thatcher, cioè al partito conservatore. Questo permise l'espansione del partito laburista verso il centro, come si dice, verso i ceti più moderati. Naturalmente il sistema politico e elettorale inglese è diverso, però qualche cosa di simile occorre anche al centro-sinistra italiano per riuscire ad avere una prospettiva. L'argomento l'ha in parte già accennato tu e ci dà lo spunto per la successiva domanda arrivata da un ascoltatore. Vi ricordo il punto è radio24.it per avere, insomma, per porre le vostre domande a Stefano Folli sulla politica. Il tema l'hai posto in parte tu ed è la questione del referendum proposto dalle forze di sinistra insieme a Di Pietro su alcuni punti della nuova normativa sul lavoro. Ora ci chiede Giovanni da Bergamo come fa un partito come il Partito Democratico ad essere alleato con una forza come quella di Nichi Vendola che si pone così sui temi del lavoro. E lì c'è una grande contraddizione, c'è un'ambiguità di fondo. L'idea che Vendola potesse essere inserito dentro questa alleanza come una sorta di corrente di sinistra del Partito Democratico era un'idea un pochino ingenua, diciamo così, perché è chiaro che Vendola, anche solo per non farsi scavalcare dai vari Di Pietro, domani magari Beppe Grillo in Parlamento, lui ha bisogno di marcare la sua presenza, la sua identità come capo di una sinistra, diciamo pure legata a un modello, un vecchio modello classista. E quindi non mi stupisce che, andando un po' dietro all'iniziativa di Di Pietro, che non fa più parte, ricordiamolo, dell'alleanza di centrosinistra, lui sia andato a sostenere il referendum sul lavoro. Tra l'altro la legge Fornero che il Partito Democratico ha votato sotto il governo Monti. L'idea di Vendola è quella di far passare nell'opinione pubblica l'impressione che o l'interpretazione che Berlusconi e Monti sono la stessa cosa, si muovono nello stesso orizzonte, con la differenza che il Partito Democratico era stato fiero oppositore dei governi Berlusconi e invece sostiene in Parlamento il governo Monti. Quindi c'è una contraddizione. Come si risolverà? Non lo so, però questa è una delle ragioni per la quale è così difficile immaginare che il Partito Democratico riesca ad andare oltre quella soglia che abbiamo indicato. Ancora un'altra domanda e ci arriva in questo caso da Adelmo che ci scrive da Perugia, il quale ci parla della fine del governo Monti, delle parole che ha detto Monti in questi giorni a proposito del fatto che il suo orizzonte finisce in primavera. Ci chiede Adelmo se secondo te è destinato l'attuale presidente del Consiglio a succedere a se stesso o magari a salire al Quirinale. Guarda Simone, quello che accadrà con la fine della legislatura davvero non lo sa nessuno, perché noi stiamo andando verso uno scenario che ha davvero pochi precedenti. Finisce la legislatura, le forze politiche secondo me sono nel complesso poco preparate a tornare stabilmente sulla scena, ma d'altra parte il voto le rimetterà automaticamente sulla scena. Avremo anche la scadenza di Napolitano. In aprile il Parlamento dovrà riunirsi per scegliere il successore di Napolitano al Colle, quindi c'è un intreccio di situazioni. A me sembra che Monti abbia fatto capire che non intende essere macinato dalle manovre della politica italiana, una politica che lui sembra molto poco concludente e molto deludente, tant'è vero che lui insiste a dire che il problema è di non vanificare quello che è stato fatto in questi mesi, che suona come un atto di grande sfiducia verso i partiti, naturalmente. Io credo che neanche Monti sappia esattamente poi che cosa accadrà davvero in primavera, come non lo sa nessuno. Io non penso che lui intenda ritirarsi, però penso che lui abbia bisogno di un quadro chiaro entro il quale poi decidere se offrire di nuovo la sua opera, ma dovranno essere le forze politiche a creare questo quadro, dovranno essere le forze politiche a decidere se vogliono che Monti continui a avere un ruolo pubblico importante. Secondo me, come Presidente del Consiglio sarebbe anche meglio che come Presidente della Repubblica, perché in questo momento noi abbiamo bisogno di un capo dell'esecutivo che sappia farsi capire in Europa, che sappia interpretare le esigenze europee del nostro paese. Però tutto questo oggi è prematuro. Al momento è chiaro che Monti non intende entrare nella campagna elettorale. Ultima domanda, e questa te la faccio io. Non è un caso forse se in questa nostra prima chiacchierata settimanale non abbiamo toccato ancora l'argomento centrodestra? Forse perché insomma l'assenza dalla scena c'è. Sì, c'è un'assenza, fa parte di quella generale inadeguatezza che mi sembra caratterizzare l'attuale quadro politico, in qualche modo anche il centro di Casini, l'UDC, che è così in un'evoluzione ancora da definire, fa parte di questo giudizio non del tutto positivo che io do, ma indubbiamente il centrodestra è fuori, è assente perché Berlusconi non ha ancora deciso che posizione prendere in vista delle elezioni. C'è un, secondo i sondaggi, un 18% circa, che può diventare il 20% ma può anche diventare il 15%, che rappresenta oggi il patrimonio elettorale di questo partito, ma bisogna decidere che cosa farne, metterlo al servizio di che cosa. Ci sono delle spinte contraddittorie dentro il PDL e io penso che Berlusconi si renda conto che bisogna stare sulla linea di sostegno a Monti, di sostegno a una politica europeista, quindi a un governo che voglia operare per il risanamento economico e per difendere la moneta unica. Però lui subisce delle pressioni da coloro che vorrebbero invece fare del PDL un grande partito populista scatenato anche contro l'Europa, contro la Germania della Merkel, eccetera, eccetera. Di qui l'assenza dal dibattito politico sostanziale in attesa di decisioni che però io spero arrivino presto, perché qui abbiamo bisogno di qualche concretezza, compresa la legge elettorale di cui non abbiamo parlato perché è un argomento davvero che poco attraente, però sta di fatto che passano i mesi e noi continuiamo a non avere nessuna riforma elettorale. Grazie a Stefano Folli per il suo punto settimanale. Vi ricordo ancora una volta l'email il.@radio24.it. Allora, avete sentito un po' di notizie nella parte iniziale del programma. Adesso però vogliamo fare un po' di numeri. Ogni settimana li faremo, li elabora per noi, li elabora con noi Riccardo Puglisi, che è un docente di economia politica all'Università di Pavia, ma soprattutto in questo caso è una persona che si occupa di economia dei media e ci aiuta appunto ad elaborare i dati. Nella fattispecie parliamo di Twitter e vediamo anche di stilare un po' di classifica, chi c'è, chi non c'è, quali sono i gruppi politici più forti. Riccardo, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Ho fatto un po' di ricerche a proposito di quello che fanno i parlamentari italiani su Twitter, in particolare mi sono occupato dei deputati e avevo già raccolto dei numeri a febbraio e ne ho raccolti ancora adesso a settembre, in modo tale che uno possa vedere cosa è successo. Allora, iniziamo a vedere quanti deputati, quanti parlamentari sono su Twitter. Il numero è semplice, il numero è il 70%, quindi 70 deputati su 100 sono su Twitter e sono aumentati in una maniera direi sostanziale, perché a febbraio erano attorno al 50%, quindi un 20% d'aumento. Più o meno probabilmente anche con l'andamento di Twitter, che progressivamente nel corso di quest'ultimo anno è diventato, come si dice, mainstream, insomma ha avuto una diffusione per così dire più ampia, no? Assolutamente sì, c'è stato questo effetto per cui Twitter è esploso in Italia diciamo nel periodo difficile dell'economia, cioè ottobre 2011, ma l'aumento è stato esponenziale, è stato robusto per tutto il 2012. Andiamo a fare a questo punto un po' di classifica. Chi è il più forte? Beh, si può fare una classifica sia a livello dei singoli partiti che a livello dei singoli uomini politici. A livello dei singoli partiti sono messi molto bene, sembra, i parlamentari centristi, quindi abbiamo per esempio nell'UDC almeno l'80% dei deputati è su Twitter, anche l'Italia dei Valori è messa bene con un 80% di persone di deputati che sono su Twitter. Evidentemente conta anche il fatto che i numeri siano più piccoli. Quelli che hanno fatto un balzo in avanti sono stati la Lega Nord e il PDL, mentre in una fase iniziale erano un po' indietro come presenza su Twitter. A settembre, facendo data a settembre, hanno incrementato di molto la loro presenza. Chi è messo meglio dal punto di vista del numero di followers? Qua si può notare il fatto che ci sono ancora una volta partiti in cui contano, partiti piccoli in cui la singola figura conta molto. Quindi l'esempio è quello, per esempio, dell'Italia dei Valori, dove Di Pietro ha una forte presenza, una forte interattività su Twitter, quindi arriva in media l'Italia dei Valori a avere un 7.700 follower su Twitter. E quanti ne conta da solo Di Pietro? E Di Pietro ne conta tanti, perché Di Pietro ne conta sostanzialmente 130.000. Quindi i nomi grossi contano molto e dal punto di vista della statistica, questa è una conseguenza della statistica, spingono in alto i numeri medi del singolo gruppo. Vediamo di fare anche un quadro di come sono i singoli politici, chi sono i più forti. Beh, si possono fare due classifiche che sono abbastanza semplici e intuitive. La prima è quella per follower e a questo punto si vede che all'interno dei partiti, per esempio come dicevo, Italia dei Valori, prima è Di Pietro, secondo c'è Donadi, la Lega è abbastanza indietro, ha numeri più piccoli, il primo è Maroni e il secondo è Pini, abbastanza forte il PD che ha come primo per follower evidentemente Bersani con 130.000 follower, secondo Franceschini. L'UDC ha Casini e Rao in classifica come follower. Poi si può guardare il lato dei tweet, cioè quanto le persone sono attive e possibilmente sono anche interattive, nel senso che interagiscono con le persone su Twitter in una maniera abbastanza frequente. E qui abbiamo nei vari partiti, abbiamo Bocchino per Future Libertà, Barbato per l'Italia dei Valori, Pini per la Lega, Sarubbi che è il più attivo di tutti, perché ha 15.000 tweet, 5T. Sì. Tra l'altro Andrea Sarubbi lo ospiteremo tra poco, perché è il fondatore di questo esperimento che si chiama Open Camera, del quale tra poco vi racconteremo. Vai Riccardo. E poi abbiamo Crosetto dentro il PDL e De Poli dentro l'UDC. La questione interessante è per esempio il fatto che il PDL è un po', dal punto di vista dei follower, è un po' orfano del fatto di non avere il leader, a parte adesso con l'arrivo di Alfano, quindi sì. i numeri si equivalgono, anzi il primo per follower, anche se il concetto di leader è discutibile, è in questa fase, concetto vago, concetto transeunte naturalmente, subito che va e viene. Comunque i primi sono per follower nel PDL a stretta, abbastanza vicini come numeri, sono Brunetta e Carfagna. Io ti ringrazio intanto per questi dati e vi ricordo ancora una volta che li troverete sul nostro sito internet. Potete seguire Riccardo Puglisi su Twitter, è Rick Puglisi con la C soltanto, non è Rick CK, è Rick Puglisi. Ricordo anche che poi andremo un po' dentro questi numeri, avrete sentito che forse sarà mancato qualcosa, citavamo Bersani e non citavamo Renzi. Beh, la settimana prossima ci occuperemo proprio delle primarie del Partito Democratico e vedremo come sono messi i vari candidati sui social network. Riccardo, grazie e buona giornata. Grazie a te, grazie a voi. Alla prossima settimana. Abbiamo sentito giusto un attimo fa con Riccardo Puglisi come sia cresciuto il numero di parlamentari che progressivamente utilizza Twitter. Erano poco più del 40% in febbraio, adesso sono il 66%, però, come si diceva, dipende dalla qualità dell'uso, cioè c'è uso e uso. Ecco, una persona che si è inventata un uso interessante, un bel esperimento di trasparenza online e via Twitter, è Andrea Sarubbi, deputato del Partito Democratico, che è con noi. Sarubbi, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, ci racconti un po' in cosa consiste. Questa cosa si chiama Open Camera. Beh, già il nome è abbastanza semplice. Camera è la Camera dei Deputati, open perché è aperta. Consiste nel raccontare su Twitter, quindi utilizzando i social network, perché poi la mia applicazione va anche su Facebook, naturalmente, quello che sta accadendo alla Camera. Che è una cosa che normalmente, insomma, dovrebbe essere aperta, no? Dovrebbe essere trasparente la Camera. E di fatto è così. Però finora accadeva che il cittadino dovesse andarselo a cercare o sulla TV satellitare della Camera, che non credo abbia grandissimi ascolti in Italia, o su Radio Parlamento, oppure su Radio Radicale, per esempio, eccetera, ma anche lì, insomma, è roba da appassionati, da addetti ai lavori, oppure proprio per i volenterosi, spesso i tesisti, cioè i ragazzi che devono fare delle tesi di laurea, andandosi a studiare gli atti parlamentari, i resoconti e così via. L'italiano medio non sapeva normalmente cosa accadesse alla Camera, tranne quello che poi raccontavano i giornali, che spesso era più polemica politica che non i provvedimenti veri e propri. Allora, ho detto, perché dobbiamo passare sempre per quelli che fanno polemiche e non fanno mai nulla? Facciamo vedere che nella Camera ci sono dei provvedimenti in esame, per cui ogni secondo, neanche ogni giorno, racconto regolarmente quello che sta accadendo. Lo faccio con dei tweet, quindi molto brevi, anche molto semplificati, se vogliamo, 140 caratteri, e mi sembra che abbia un buon successo, insomma, perché sono veramente migliaia le persone che sono interessate. Un'avvertenza anche per gli ascoltatori che si fossero messi da poco su Twitter, da poco a seguire i social network. Naturalmente è una cronaca di parte, insomma, perché la persona che abbiamo qua non è un collega giornalista, diciamo così, però è anche un deputato del Partito Democratico. Beh, sarebbe anzi strano il contrario, no? Cioè, se io militassi in una parte politica, quindi fossi convinto di alcune idee e poi per essere obiettivo su Twitter sconfessassi le idee nelle quali credo. Io faccio una cronaca di parte e l'ho detto anche scherzando a Luca Sofri del Post una volta che mi criticava per questo. Ho detto, guarda che se vuoi la cronaca obiettiva chiedila ai tuoi colleghi giornalisti, se vuoi Caressa. La mia è la cronaca del tifoso juventino che racconta la partita della Juve, ma non tanto tifoso, guarda, veramente è soltanto un punto di vista, il che però secondo me non significa che non sia plurale, perché credo che il pluralismo non è che sia l'essere tutti piatti, ma sia il sommarsi di opinioni diverse. Di qui il tentativo di tirare dentro anche gente dall'altra parte. Questo dimostra la mia buona fede, no? Se avessi voluto fare propaganda sarei stato zitto, non l'avrei detto a nessuno e avrei fatto la cronaca Twitter da solo. La prima cosa che ho cominciato a fare quando ho cominciato questo progetto Open Camera è stato quello di coinvolgere persone di altri partiti, perché ho detto la mia voce può interessare, ma è ancora più interessante se le voci sono diverse, quindi se i punti di vista sono diversi. E quindi ho convinto quasi subito Roberto Rao dell'UDC, abbastanza presto qualcuno dell'Italia dei Valori, del PDL un pochino ci è voluto, anche perché loro, quando ho cominciato io, erano in maggioranza. La maggioranza di solito ha qualche difficoltà in più rispetto all'opposizione. Onestamente è più facile twittare dall'opposizione. Infatti adesso si stanno divertendo moltissimi leghisti che prima stavano zitti, no? È un modo anche per far propaganda. Guardi, io racconto anche quello che faccio io, naturalmente. Però se pensassi che Twitter è un ufficio stampa non avrei capito nulla. Cioè, Grillo avrà pure capito la potenzialità della rete, però non ha capito, secondo me, la cosa fondamentale. Cioè che sulla rete io dico e quell'altro può anche rispondere. E se quello risponde, io una risposta, almeno insomma, una su due, gliela dovrò dare, perché magari non posso rispondere ai mille che mi scrivono ogni giorno, però qualcuno dovrà rispondere per forza, no? Ci deve essere uno scambio. Quindi è chiaro, è un punto di vista, le dico, però se io pensassi che io su Twitter faccio propaganda, sinceramente non avrei capito nulla, anche perché non è che tutti i miei 18.000 o quanti cavolo sono di follower in questo momento si traducono in voti, sono persone che a volte la pensano diversamente. Ma è utile anche per far sapere che si sta lavorando, perché questo c'è il pregiudizio. Visto che normalmente comunque il deputato medio, secondo l'opinione pubblica, lavora un giorno e mezzo a settimana, no? Sapere che invece, per esempio, in un momento siamo in commissione, stiamo facendo una cosa, diverse volte mi è capitato, ah, ma perché lavorate anche oggi? Perché magari non è una cosa che normalmente si sa, no? Oppure far sapere anche che uno in quel momento è in viaggio per l'altra parte d'Italia per una conferenza su un tema che si sta affrontando in Parlamento, eccetera, eccetera. A mio parere dà un'immagine anche un po' più umana dei deputati, se no sembriamo veramente dei marziani che stanno lì, staccano il cedolino a fine mese, prendono lo stipendio e poi dopo ritornano a casa loro in terrazza, in canottiera, quando c'è il sole, a prendere il sole. Grazie ad Andrea Sarubbi, deputato del Partito Democratico. Altra storia che vi vogliamo raccontare, anche se di qualche giorno fa, è la vicenda di un finto candidato alle primarie del Partito Democratico, quindi occhio a quello che trovate in rete anche da questo lato. Un esperimento che secondo alcuni è un cattivo esperimento su come deve funzionare la rete, di questo è convinto Ciro Pellegrino, giornalista, blogger, lo trovate su giornalisticamente.net. Allora Ciro, iniziamo dai fatti. Sì, i fatti sono questi. È circolato in rete qualche giorno fa questo hashtag, che è questo, diciamo, segnale, diciamo, per i meno bravi su Twitter, questo riconoscimento su Twitter, per passione. Per passione si candidava una persona alle primarie ed era un giovane militante del Partito Democratico, si candidava alle primarie ed era un napoletano. Io sono napoletano, quindi mi è balzata subito la mosca al naso, ho detto: mamma, un napoletano e si candida, vediamo dove sta sta notizia. Ecco, mentre tu cercavi di verificare questa cosa, nel frattempo la cosa arrivava sulle agenzie, tra l'altro. Sì, è arrivata sulle agenzie nel rullo di, penso, di ADN Kronos, non vorrei ricordare male, che è visibile anche su Repubblica.it, quindi ha una visibilità nazionale. Arrivava la notizia di questo Giuseppe Maiello. Alla fine la cosa più banale era che semplicemente era una panzana inventata, cosa, diciamo, particolare, a tavolino. Perché? Perché a Frattocchie, dove un tempo si incontravano i grandi cervelli del fu Partito Comunista, poi PDS, poi DS, eccetera, eccetera, ora ci sono i giovani, tra virgolette, aspiranti stregoni del Partito Democratico che cercano nuove strategie comunicative. E una delle esercitazioni che dovevano fare era quella proprio di, tra virgolette, inventare un qualcosa, inventarsi anche un candidato alle primarie, e hanno pensato bene di inventarsi il candidato, fare pure il comunicato e farlo girare. Alla fine è un esperimento, grullo chi c'è caduto, direbbe un toscano. Tu invece non la vedi così, secondo te è un autogol per il Partito Democratico? Secondo me sì, perché al di là dell'esperienza comunicativa, il voler rincorrere la rete scimmiottandola, dicendo: ecco, non credete tutto a tutto quello che si dice sulla rete, assolutamente non si può fare in questi termini, perché far credere a un giornalista che c'è un candidato, mandare dei comunicati, è per me inquinamento di una fonte. Ciro, per chiudere, ma sto Peppe Maiello esiste davvero oppure no? Peppe Maiello esiste, è l'addetto stampa del Partito Democratico in un comune del Vesuviano, Santa Anastasia, e io spero che Peppe, con tutti i militanti della sua zona, si occupi più di quel territorio, che è un territorio ad altissima densità camorristica, piuttosto che di queste panzane. Grazie a Ciro Pellegrino, giornalista, blogger, lo trovate su giornalisticamente.net. Buona giornata, Ciro. Grazie a tutti voi. Infine apriamo lo spazio sull'America, è un tema sul quale torneremo nel corso di Votantonio, e non solamente sull'America, terremo sempre aperta una finestra sull'estero. Qualche numero sulle convention dei democratici e dei repubblicani che si sono appena svolte. La convention repubblicana ha generato complessivamente 4 milioni di tweet, 2 milioni e mezzo di visualizzazioni di video su YouTube, 300.000 ore di video visti in diretta su internet in streaming. Quella democratica ha generato 8 milioni e mezzo di tweet. I accept your nomination for President of the United States. Questo è il discorso con il quale Mitt Romney ha accettato la candidatura, ha raggiunto un picco di 14.000 tweet al minuto, nulla di paragonabile con quello che ha generato questo discorso qua. Madam Chairwoman, delegates, I accept your nomination for President of the United States. È quello del presidente Obama, naturalmente. Siamo sopra i 50.000 tweet al minuto. E però i repubblicani sembra che finalmente siano entrati in partita anche da questo lato, anche dal lato della campagna elettorale via web. Ne parliamo con Christian Rocca, che è stato inviato del Sole 24 Ore alle due convention. Christian, allora è così? Ma guarda, c'è una dichiarazione del portavoce della campagna di Obama, Ben LaBolt, il quale ha detto: beh, questa volta i repubblicani hanno deciso di giocare la partita sui social network, perché 4 anni fa, diciamo, partita non ci fu, ci fu soltanto uno che è sceso in campo, cioè Obama, e non solo utilizzò Twitter per la prima volta, diciamo, in modo diffuso, non so se ti ricordi la nomina del vicepresidente, del candidato vicepresidente Joe Biden, fu annunciata prima via Twitter e poi con un comunicato stampa, diciamo, tradizionale. Ma soprattutto Obama allora utilizzò, grazie a Chris Hughes, uno dei fondatori di Facebook, che entrò nella gestione della sua campagna elettorale, utilizzò il sistema Facebook, il modello di aggregazione sociale di Facebook, e lo applicò alla politica con il suo sito mybarackobama.com, che sostanzialmente era un social network esattamente strutturato esattamente come Facebook, con il quale lui è riuscito a costruire, a costituire gruppi locali e tematici in giro per il paese senza bisogno di muovere un dito, e questa è stata anche, tra l'altro, una fonte di non solo di aggregazione e di militanza, ma anche di finanziamento. I repubblicani non fecero assolutamente nulla, questa volta invece ci sono, ma ci sono con numeri diversi rispetto a quelli di Obama, che appunto ovviamente è partito prima. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non credo che ci sia che questa campagna elettorale possa essere decisa da Twitter o da Facebook, come l'altra volta parte è stato, perché ormai, insomma, social network sono degli strumenti come gli altri, come il telefono. Il problema sono i contenuti, sai, chi li sa o chi li usa e che cosa ha da dire. Grazie anche a Christian Rocca, chiudiamo così questa prima puntata di Votantonio. Vi ricordo che ci trovate, c'è la nostra pagina Facebook, ci trovate sul nostro sito internet, sul sito di Radio 24, www.radio24.it, continueremo ad aggiornare, c'è l'account Twitter della trasmissione, vota Antonio R24, o il mio, Simone Spetia, si scrive così con la T, anche se si legge Spezia. Un ringraziamento ad Alessandro Chiappini in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto, vi ricordo anche che potete scriverci, è votantonio@radio24.it per suggerimenti, informazioni e idee. Buona giornata. Sì.